Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana ed è la puntata, l'ultima puntata prima dell'attesa, attesissima riapertura delle scuole, attesa in primo luogo dagli studenti, dagli insegnanti, dal personale scolastico e attesa anche, chi ci mancherebbe, dai genitori, con tutte le complicazioni, un test anche politico per il governo. Ne parleremo a lungo nella seconda metà del programma. Ricordo, già c'era il promo poco prima dell'inizio del programma, che Radio 24 lunedì seguirà con quello che noi chiamiamo Radio Day tutta la giornata, collegamenti dentro il GR, poi nei programmi. Il primo giorno di riapertura per molte regioni, non per tutte, e domani vi sarà un importante speciale del Sole 24 Ore di cui parleremo con le domande, le regole da seguire per famiglie, studenti, docenti. Andremo a guardare anche la situazione all'estero, perché in questi casi, secondo me, come è scritto, come dichiarato anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Italiano Agostino Miozzo, praticamente non c'è un paese che faccia quello che fa il paese limitrofo, ossia se si va a vedere come si stanno muovendo Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, ci si accorge che sì, la mascherina è quasi dappertutto obbligatoria, gli adulti nelle scuole e i ragazzini sopra i 6 anni in alcuni paesi, in altri no, però anche lì c'è una grossissima si va avanti a piccolo cabotaggio, a tentativi. La Francia ha già avuto dei casi di chiusura delle scuole, stiamo attendendo, ci dovrebbe essere anche una comunicazione importante del primo ministro francese tra poco, dove dovrebbe indicare un inasprimento, scelte dolorose, l'ha definita il governo francese nei giorni scorsi, perché la Francia ha un numero di casi altissimo, che ha toccato quasi 10.000 casi al giorno. Questo lo dico non certo per non criticare il ritardo con cui ci siamo mossi noi, lo abbiamo fatto a giugno e luglio in tempi non sospetti, però adesso è inutile continuare sul ritardo, ma per far capire che anche all'estero i problemi non sono pochi, cioè nessuno ha un protocollo che gli altri possono tranquillamente seguire. Detto questo, cercheremo di capire, appunto, anche perché c'è una denuncia della CISL di poco fa, che una scuola su 4 potrebbe non essere pronta per riaprire, non aprirà normalmente. Ora bisogna capire cosa vuol dire normalmente. So che c'è polemica anche su le cattedre scoperte. Attenzione, questo avveniva ogni anno, cioè ogni anno è che ce ne occupavamo molto meno. C'è un problema dei supplenti che vengono trovati nelle settimane successive, in alcuni casi arrivano anche tardissimo, supplenti e insegnanti di sostegno. È chiaro che quest'anno risulta ancora più evidente, ancora più critica la situazione che ci trasciniamo dietro da anni. Ne parleremo nella seconda ora del programma, dicevo, cercando anche di capire, appunto, i protocolli, come questi protocolli potrebbero essere modificati. In apertura parleremo invece dei dati diffusi oggi dall'Istat sulla occupazione e disoccupazione. Allora, per alcuni versi sono un po' vecchi, perché sono il secondo trimestre dell'anno, quindi aprile, maggio, giugno, mentre abbiamo commentato qualche giorno fa il dato di luglio, però ci danno una fotografia anche sui 3 mesi, e anticipo che da quello che abbiamo visto nel secondo trimestre il grosso dei minori occupati si scarica, ahimè, sugli under 35. Poi però commenteremo anche un rapporto di Union Camere in cui ci sono praticamente, sostiene che 900.000 tra laureati, diplomati e poi altri 680.000, quindi un totale di 1.800.000 persone troveranno lavoro con qualifica professionale tra 2020 e 2024, ma in 4 casi su 10 non saranno disponibili sul mercato, e cioè mancheranno, e questo è abbastanza paradossale visti i tassi di disoccupazione che ci attendiamo, mancheranno 4 posti su 10 soprattutto tra diplomati e laureati, ma anche in chi ha una qualifica professionale. E poi andremo a ricordare anche i vari settori dove si crea il maggiore mismatching, come dicono gli inglesi, quindi il mancato incontro tra domanda e offerta. L'offerta complessiva riuscirà a soddisfare solo il 60% delle domande della domanda potenziale. C'è un fabbisogno medio annuo di 137.000 unità con un'offerta annuale di appena 85.000 unità. Ecco perché sarebbe importante che i centri per l'impiego e soprattutto i navigator, di cui ho perso ogni che sono scomparsi dal mio radar personale, che non è il massimo per un navigator scomparire da un radar, però che vi fosse una maggior capacità anche di indirizzare nei percorsi di formazione sulla base delle richieste. Ma qui, capito, è un sistema che non si parla, Union Camere da un lato e poi c'è il rapporto Excelsior dall'altro, poi ci sono i centri per l'impiego, e perché prima o poi, ferme restando le situazioni di povertà che si è cronicizzate, quindi dove il reddito di cittadinanza serve come strumento di welfare, l'abbiamo sempre difeso, prima o poi però per la parte che riguarda lo strumento di ricerca di lavoro bisognerà fare una riflessione su sto reddito e sui navigator, se continua a esserci una differenza in cui non si riescono, si stimano in un 40%, cioè 4 su 10 le figure che non riusciranno a essere trovate nei prossimi anni dalle imprese. Perché, voglio dire, se proprio bisogna investire, investiamo anche nella sinergia, nella comunicazione tra i vari enti. Però, insomma, ne parleremo in apertura, dopodiché i mercati oggi presentano pochi spunti, più 0,17 Milano, più 0,19 Francoforte, più 0,50 Parigi, più 0,50 Londra, Dow Jones più 1%, a Milano va bene Amplifon più 3,13, Diasorin più 2,65, Snam più 2,30, Moncler più 2 come Prismian, Boots Unicem più 1,80, Campari più 1,30 e Stimac Electronics più 1,1 come Ferrari. Il fronte opposto Saipem meno 2,30, Unicredit meno 1,90, Mediobanca meno 1,80, Banco BPM meno 1,80 come Leonardo, l'1,5 lo perde Telecom, l'1,30 Intesa San Paolo e Fineco Bank. Ancora 349-238-6666 come sempre il numero per SMS e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Dunque, rispondo volentieri a un ascoltatore che dice: ma lei parla molto di scuola, ma che c'entra con un programma di economia? Lo ripeto di nuovo, volentieri, a maggior ragione visto il rapporto oggi, la scuola è fondamentale. Allora, continuiamo a dire che bisogna investire nelle risorse umane, la qualità del capitale umano, come si dice in gergo, quindi nella formazione delle persone, che la competizione futura si farà con la digitalizzazione e la formazione delle persone. Voglio dire, se, lo dico senza offesa, se lei non capisce quanto importante sia in un contesto economico la formazione di quelli che poi saranno soggetti economici, andranno a lavorare, io spero, i ragazzi e le ragazze che escono dalle scuole, e quanto sia importante anche permettere una formazione che, ricordo, non è solo una formazione così in generale. La scuola dovrebbe, ha come compito sociale quello di appianare le distanze e le differenze, le inequità che la società ha creato, cioè il fatto che tu sia nato in una famiglia abbiente con molti libri, con molte possibilità di acculturarsi oppure no, di solito in un modello che funziona viene ridotta questa differenza dalla scuola, che permette appunto anche a chi non ha avuto la fortuna di crescere in famiglie ad alto reddito e alto capitale culturale, di accumulare, se vuole, capitale culturale, cioè di ridurre quello che si chiama divario sociale. Ora, se il divario sociale, la formazione, non rientrano, secondo lei, in temi di carattere economico, non parliamo di finanza qui, parliamo di economia, economos, quindi secondo me rientrano e come. Comunque, attenzione, perché poi se no tutti i ragionamenti che facciamo sulla formazione delle nostre persone, dei lavoratori e quant'altro, non hanno senso, sono solo retorica se non poi non andiamo nel concreto. Il primo caso di formazione è quello della scuola, a maggior ragione della scuola dell'obbligo. Giustamente poi un ascoltatore dice: ma perché il suo è un programma economico? No, infatti è un programma di intrattenimento. Ma andiamo avanti. Gran Bretagna, il PIL britannico a luglio è salito del 6,6% dopo il più 8,7% di giugno. È comunque anche a luglio il PIL britannico a un meno 12% rispetto a luglio del 2019. Oggi è intervenuta la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al termine dell'Eurogruppo informale a Berlino, e ha detto: attenzione, nelle nostre previsioni nessuna economia tornerà ai livelli pre-Covid prima della fine del 2022, e quindi attenzione, perché insomma, i tempi di recupero saranno lunghi. Qualcuno invece sta dicendo: beh, almeno si parla della scuola e ci sono i primi investimenti nella scuola dopo i tagli fatti negli ultimi 20 anni. Sì, sono d'accordo. Certo che avrei voluto, non solo in Italia ma in generale, che gli investimenti nella sanità e nella scuola non avvenissero per colpa del Covid, ma lì c'è una responsabilità italiana, ma c'è anche una grossa responsabilità europea, cioè nell'impianto complessivo che l'area euro ha avuto fino a febbraio, tutta attenta ai tagli ragionieristici, per cui insomma, però è inutile ormai continuare a criticare un'Europa in cui l'unico mantra a quel tempo era solo il deficit sotto il 3% e rispetto del patto di stabilità, che è scomparso, diciamo, da quando c'è il Covid, io aggiungo in questo momento per fortuna. Come se i nostri studenti fino all'anno scorso fossero stati dei grandi geni, ma nessuno ha detto che la scuola prima funzionasse benissimo, anche se devo dire soprattutto la scuola primaria, la scuola media inferiore si posizionano bene nella classifica. Poi c'è uno scarto, come la Fondazione Agnelli ci ha spesso ricordato, quando si avanza nel livello di istruzione, però è inutile polemizzare su com'era la scuola prima. Noi dobbiamo cercare di riaprire la scuola con la maggior sicurezza possibile, e eliminando il più possibile la didattica a distanza, che è un ulteriore elemento di iniquità sociale, perché a maggior ragione la famiglia abbiente con la didattica a distanza avrà i tablet, gli spazi, gli ambienti, e invece la famiglia meno abbiente si trova, come abbiamo visto, con i ragazzini obbligati a seguire lezioni magari col telefonino, perché c'è un solo tablet che serve magari al papà, alla mamma e ai figli, in ambienti molto più piccoli. Quindi la didattica a distanza è un ulteriore ampliamento del divario sociale. Lo so benissimo che l'abbiamo fatta perché era l'unico modo per contenere il virus, però ricordiamoci che la didattica a distanza non può essere la soluzione se abbiamo e condividiamo che la scuola abbia anche una funzione sociale oltre che di formazione. Comunque andiamo avanti. Per quello che riguarda l'Italia, la Confindustria oggi registra una crescita del PIL stima una crescita del PIL italiano nel terzo trimestre di un più 9%, che però è contenuta rispetto al crollo nel primo e nel secondo al meno 17,6%, e continua a confermare che il PIL italiano chiuderà tra un meno 10 e un meno 11%. C'è un rimbalzo parziale e tormentato, che è un po' quello che dice oggi anche il commissario europeo Gentiloni. C'è una ripresa ma disomogenea nell'area euro e incerta sui tempi. Confindustria per l'Italia parla di un rimbalzo parziale tormentato nel terzo trimestre. C'è un recupero lento della domanda interna, l'export è atteso in frenata, l'area euro è in ripresa ma tra luci e ombre. Le domande al fondo di garanzia nel frattempo hanno toccato i 78,7 miliardi di euro, di cui 1.060.000, di cui la stragrande maggioranza, 876.000 fino ai 30.000 euro, per 17 miliardi. Le moratorie sui prestiti bancari hanno superato i 300 miliardi di euro. Nel frattempo la Banca d'Italia fa sapere oggi che nel mese di giugno, ora giugno è stato il mese in cui si poteva di nuovo viaggiare tra regioni in Italia, c'è stato qualche timido affaccio dei turisti, poi vedremo luglio e agosto, però a giugno le spese dei turisti stranieri in Italia hanno fatto meno 77%, e quelle dei viaggiatori all'estero, italiani all'estero, hanno fatto meno 692 milioni, meno 71%, e quindi si sono collocate a 1 miliardo e 45 milioni. Oggi c'è stato un intervento del Presidente del Consiglio Conte, ma non solo, nel corso della presentazione del libro blu dell'Agenzia delle Dogane. Allora, interessante notare che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 15 maggio al 31 agosto ha sdoganato 1 miliardo e 300 milioni di mascherine e poi 13 milioni e mezzo di 13 milioni e mezzo di protezioni per il volto, 1 miliardo e 400 milioni di guanti e 22 milioni di litri di liquido igienizzante. Sdoganati anche 2.500 strumenti di terapia intensiva e 168.000 accessori per la protezione del corpo. Su questo è intervenuto anche il Premier Conte, che ha detto il lockdown è stato un momento arduo, ma noi ora possiamo dedicarci alla ripartenza del paese, che siamo più avanti di altri nella ripartenza del paese. Senza dubbio il lockdown ha rappresentato una prova particolarmente ardua, difficile anche dal punto di vista psicologico per tutti i cittadini, per l'intero settore poi della produzione, del commercio, per la pubblica amministrazione. Oggi però, continuando ovviamente a vigilare e a mantenere alta la guardia, grazie al sistema anche di monitoraggio nazionale, alle regole precauzionali di distanziamento, possiamo con fiducia attendere all'opera di ricostruzione e di rilancio del paese. Altri paesi non sono ancora in questa fase, perché sono ancora alle prese con la parte più acuta della pandemia. Noi, grazie al vostro lavoro anche, ci stiamo predisponendo per l'opera di ricostruzione e di rilancio. Anche in questa fase di ripartenza l'Agenzia può rivestire un ruolo fondamentale, soprattutto nel facilitare la circolazione delle merci, gli scambi commerciali, internazionali, favorendo sotto questo specifico, decisivo aspetto la crescita economica dell'Italia. E poi sul tema del Recovery Fund, il Premier Conte ha detto: coinvolgeremo tutte le forze politiche, dobbiamo avere un dialogo con il Parlamento per approntare questo piano nazionale, quindi il Recovery Plan. Nei mesi a venire il nostro paese è chiamato ad affrontare sfide complesse, ma appunto abbiamo questa opportunità senza precedenti. Abbiamo questo piano nazionale di ripresa e resilienza, dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento, ieri l'abbiamo anticipato, troveremo le modalità più efficaci per rendere questo piano un piano nazionale, condiviso innanzitutto da tutte le forze politiche, anche di opposizione, coinvolgente anche tutte le forze economiche, sociali e culturali del Paese. Potranno trovare in questo piano spazio i progetti di rafforzamento delle nostre infrastrutture, anche doganali e logistiche, che sono cruciali per assicurare una maggiore competitività al Paese. È necessario innanzitutto migliorare le attuali infrastrutture fisiche, logistiche, per rendere i nostri porti aeroporti più moderni, all'avanguardia, per poter competere alla pari con i principali leader player europei, che attualmente riescono ad attrarre anche più di noi buona parte del commercio internazionale. Allora, una cosa la voglio dire, visto che poi parleremo a lungo di scuola. La critica che noi abbiamo fatto al governo, chiedendo in tempi non sospetti a giugno-luglio le dimissioni del ministro Azzolina, non era una critica alle difficoltà nel capire su come rientrare, perché questo avviene in tutti i paesi. Era una critica sui tempi, cioè a giugno, mentre si predisponeva la kermesse di Dora Pamphili, ancora non avevamo mezza informazione su quali fossero i ragionamenti che stava facendo il comitato scientifico, il ministero, cioè si parlava di plexiglass, non plexiglass e quant'altro. E abbiamo semplicemente detto: iniziate a fare capire, a farci sapere su che cosa stai lavorando e a definire il perché. Già è un casino di suo per tutti i paesi la riapertura delle scuole, se ti prendi all'ultimo minuto fai vivere le famiglie, gli studenti, il corpo insegnanti e tutti, diciamo, coloro i quali lavorano nelle scuole con un'incertezza estrema. Ora, perché lo dico? Perché non vorrei che si ripetesse lo stesso copione sul Recovery Fund, perché avete fatto, cioè, il piano Golà, avete fatto gli incontri a Dora Panfili, benissimo, abbiamo detto che sono arrivate non so quante centinaia di richieste da parte dei vari ministeri, abbiamo detto che ci sarebbe una sestina nelle bozze di 6 interventi cruciali, però quelli sono gli obiettivi macro aree. Poi vorremmo capire anche la scrematura che bisogna fare, e lo dico al governo: per forza di cose dovrai scontentare qualcuno, perché sennò non fai politica. Politica significa anche capacità di sintesi e di scelta. Non ci sono i soldi per tutti, è inutile immaginare che si possano accontentare tutti, bisogna concentrare le risorse per quello che riguarda le risorse europee. Poi ci sono anche, c'è anche il fronte delle risorse italiane. E allora, così, l'invito è: non teneteci fino all'ultimo, al 15 ottobre, così per capire che cosa farete. Cerchiamo di dare, iniziare a dare informazioni, non prendetevi tardi, perché abbiamo capito tutti che gli investimenti andranno fatti nel digitale, nelle infrastrutture, nel green, perché lo chiede anche l'Europa. Poi bisogna andare nello specifico, e quando sento un premier o un ministro come la De Micheli che parlano del ponte sullo stretto, perché non è questo l'obiettivo in questo momento. Non ce l'ho, ma ha scritto un ascoltatore, lei ce l'ha con la Sicilia, ma si figuri, ritengo, oppure che il governo ci dica perché il ponte sullo stretto è prioritario, ma non mi sembra, mi sembra più importante per esempio l'alta velocità, la diciamo chiusura, quindi riuscire a terminare le reti di alta velocità e partire anche con la benedetta per esempio Napoli-Bari, visto che stiamo parlando del sud. Ma non vorrei che si continuasse ed stiamo ragionando, no, dovete iniziare a dirci delle opere prioritarie, dove verranno diretti questi soldi, perché sennò poi arrivare all'ultimo minuto ti porta a questa critica. Non è facile anche in questo caso per nessun governo rilanciare il paese, però la Francia ha pubblicato a inizio settembre un piano dettagliato di 48 pagine, 48, vediamo se riusciamo a stare sulle 48 pagine, e in cui, a differenza di quanto sta facendo l'Italia in questo momento, non si elencano solo gli obiettivi, e quindi vogliamo aumentare, ma come raggiungerli, e quindi sulle infrastrutture quali sono realmente prioritarie, sull'edilizia scolastica, l'edilizia sanitaria, dove si va a intervenire, con che criteri, come vengono distribuiti i soldi. Il DL semplificazioni permette di fare appalti in affidamento diretto sotto i 150.000 euro o fino a 150.000 euro e via così. E vale per le autostrade, quali facciamo, la Gronda di Genova, la chiudiamo, non la chiudiamo, la facciamo, non la facciamo, questo è quello che vogliamo. E poi anche, per carità, ma non rientra nei fondi europei, un piano di riforma fiscale, ma non solo l'obiettivo, per favore. L'obiettivo l'abbiamo capito più o meno tutti: sfruttare questa tragedia del Covid per fare un salto al paese di modernizzazione infrastrutturale, digitale, nel green, nella sostenibilità e via così. L'obiettivo l'abbiamo capito, come l'obiettivo della scuola era chiaro a tutti: cercare di far entrare i ragazzi in sicurezza. Poi però il diavolo si nasconde nei dettagli, quindi dovete dirci esattamente con quali criteri procederete. Infatti giustamente Enrico mi chiama populista, va bene così. Gualtieri dice: l'Italia ha saputo reagire bene alla crisi e per primi i cittadini, abbiamo mobilitato il 6% del PIL per interventi a sostegno dell'economia. Il 2020 è ancora segnato dall'impatto pesantissimo della pandemia. L'Italia, come è stato riconosciuto a livello internazionale, ha saputo reagire bene. Le misure messe in campo dal governo finora, sia sul versante del contrasto, contenimento della pandemia, sia su quello economico che ci ha visto mobilitare 6% del PIL per interventi a sostegno dell'economia, hanno garantito risultati importanti sul fronte sanitario e su quello della tenuta economica e sociale del Paese, che adesso è nella condizione per ripartire. Dunque, Dunque, mi scrive un ascoltatore, ma qualcosa di positivo lo fa questo governo? Guardi, abbiamo ricordato gli elementi che ci sembravano positivi, anche nel DL semplificazioni c'è stato un elemento di semplificazione, poi non quanto avremmo voluto. Tra l'altro io non sto facendo una battaglia politica, so che ci sono le regionali, l'invito a predisporre piani concreti vale anche per l'opposizione. Io non ho ancora capito l'opposizione come avrebbe riaperto le scuole, al di là di tanta cagnara, no? Lo dico tranquillamente, non ho letto uno straccio di programma dell'opposizione che dice si è andato tutti quanti senza mascherina, tutto così, cioè, perché se la linea deve essere il Covid non esiste, allora non ci siamo capiti proprio. Quindi, però è ovvio che tra chiedere delle proposte concrete all'opposizione e chiedere delle proposte concrete al governo, la differenza è che uno ha la leva per mettere in campo, l'altra no. Quindi è giustissimo questo, che anche l'opposizione non può solo limitarsi a criticare. Però la responsabilità è oggettivamente diversa. Dopodiché, guardi, siccome alcuni mi accusano invece di essere troppo a favore del governo, va bene anche la sua critica. Tanto non cambia di una virgola il mio giudizio. Qualcuno continua a scrivere invece, ma che senso ha un ponte sullo stretto se tu non fai l'alta velocità in Sicilia? Sono d'accordo, anche perché se ci metti 3 ore a fare Messina-Palermo, mi spieghi qual è il vantaggio di avere un ponte? Ma non voglio tornare sul ponte. Speravo di non parlare più del ponte per un po', finché non finiamo le altre opere che sono o cantierate o previste. Facciamo l'alta velocità in Sicilia, facciamo l'alta velocità tra Bari e Napoli, no? Chiudiamo la rete di alta velocità, facciamo le autostrade, che se quello, poi parleremo anche del ponte. Allora, il mercato del lavoro nel secondo trimestre, ripeto, è una fotografia un po' vecchia perché abbiamo commentato qualche giorno fa i dati di luglio, però ci dà un quadro su 3 mesi. Gli occupati sono diminuiti a causa dell'emergenza sanitaria e del lockdown di 470.000 unità rispetto al primo trimestre, ma la cosa più importante è il raffronto con il secondo trimestre 2019, 841.000 occupati in meno. Tra l'altro si concentra soprattutto sulla diminuzione degli occupati riguardo ai dipendenti a termine, 677.000, anche perché quelli dipendenti a tempo indeterminato c'è il blocco dei licenziamenti, e si concentra su quelli con durata del lavoro non superiore a 6 mesi, 428.000. poi non vi sono state le nuove assunzioni a tempo determinato del periodo turistico, questo incide negativamente rispetto a luglio, cioè a luglio nel trimestre dell'anno scorso iniziava ad avere l'assunzione a tempo determinato per tutte le strutture turistiche, già ad aprile, ma soprattutto maggio e giugno. I settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria sono quelli dove chiaramente il lavoro a termine, tra l'altro, è più diffuso, perché il commercio ha fatto 191.000 occupati in meno rispetto a un anno fa. Alberghi e ristorazione, meno 246.000, 16% in meno. Ristorazione, meno 13%. Che è un dato migliore comunque degli alberghi, ma non è anche qui un mistero, i ristoranti qualcosa hanno fatto a giugno e non solo, gli alberghi invece ancora nei primi 3 mesi erano, col dato che abbiamo dato sui turisti stranieri, meno 77% di spesa, c'era poco da assumere a tempo determinato. I servizi domestici alle famiglie, meno 125.000 persone. Le professioni più colpite, scrive l'Istat nel secondo trimestre: camerieri, baristi, cuochi, commessi, esercenti delle vendite al minuto, collaboratori domestici e badanti. Tra le poche professioni in crescita si segnalano i tecnici programmatori o elettronici e gli addetti alle consegne. E poi il dato anagrafico: metà degli occupati persi è sotto i 35 anni, appunto erano contratti inferiori ai 6 mesi, spesso sono di persone più giovani. Il tasso di occupazione al sud è sceso al 43,4%, il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre è calato all'8,3%, ma solo perché sono aumentati gli inattivi, cioè quelli che non entrano nella classifica, nelle statistiche di disoccupazione, perché il lavoro neanche lo cercano. Professor Pietro Garibaldi, che insegna economia politica all'Università di Torino, buonasera. Buonasera a voi. È vero che la fotografia è un po' vecchia, perché noi abbiamo commentato qualche giorno fa il dato di luglio dove erano risaliti gli occupati di 85.000, immagino per gli stessi motivi che stavo raccontando, cioè qualche assunzione in più nel settore turistico e qualche riapertura in più. Però tant'è che anche il tasso di disoccupazione a luglio era risalito, che è tra virgolette un buon segnale, vuol dire che più gente si mette a cercare lavoro anche se non lo trova e non è più nella parte inattiva, cioè talmente demoralizzata che nemmeno lo cerca. Però insomma mi sembra che qualcosa di chiaro ce lo dica il secondo trimestre, che anche sul fronte occupazione come sul fronte fatturati questa crisi del Covid sì, colpisce tutti ma in maniera molto molto diversa. Basti vedere i settori merceologici, tipicamente commercio e tutto ciò che ruota attorno al turismo. Sì, diciamo che alcuni dati sono impressionanti, quelli che lei ha riassunto mi sembrano perfetti, ovviamente in termini di distribuzione settoriale sono tutta quell'attività economica in cui la domanda è più legata al contatto sociale, quindi ovviamente tutto ciò che è la ristorazione, gli alberghi durante i mesi del lockdown, perché parliamo dei mesi più bui, quelli di aprile, maggio e giugno. I dati trimestrali ovviamente sono anche più dettagliati perché abbiamo un campione molto più numeroso e ci danno questa fotografia. Il dato ulteriore rispetto a questo è quello che ha detto lei, è che oltre a essere ineguale in termini di settore, la crisi è molto ineguale in termini del tipo di contratto, perché hanno sofferto soltanto, quasi soltanto i temporanei, meno 600.000, più 670.000 su base annua di temporanei, incredibile, vuol dire 20%, un temporaneo su 5 è sparito, e chi sono? Sono i giovani, quindi abbiamo fatto sostanzialmente il contrario di quello che l'Europa ci ha chiesto con il Recovery Fund, abbiamo protetto i lavoratori più anziani con i lavori a tempo indeterminato. Sì, oddio, non è che li abbiamo protetti, è che siccome c'è il blocco dei licenziamenti, sappiamo tutti che in questo paese è più facile che a tempo determinato sia un giovane che si è appena affacciato sul mercato del lavoro e che a tempo indeterminato sia un lavoratore, diciamo, con un'età più alta. Però su questo la vorrei sentire dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. Focus Economia. Allora, professor Garibaldi, dicevamo, è vero che si è scaricata la parte di disoccupazione, di non occupazione, nella stragrande maggioranza dei casi sui lavoratori a termine e quindi anagraficamente sono anche lavoratori più giovani, ma le chiedevo, non poteva essere altrimenti visto il blocco dei licenziamenti? Sì, ma è una scelta, esattamente come dice lei, ma è una scelta politica che ha fatto il governo quando ha deciso due misure. Ecco, le imprese, io vi blocco i licenziamenti e vi estendo la cassa integrazione. È un intervento clamoroso di politica economica, rozzo dal punto di vista dei licenziamenti, ma ha finito in quel giorno a penalizzare i giovani. Che è quello che sostengono anche molte imprese, cioè attenzione che se noi non possiamo scegliere, diciamo, se prendere un tempo determinato e magari chiedono un prepensionamento per un lavoratore che ormai insomma non, andremo per forza a assumere molto meno e quindi assumere molto meno giovani. Quindi è ovvio che dal momento che poni all'impresa di fronte a un vincolo così complicato, l'unico modo, l'unico margine di aggiustamento è o quello che si chiama il turnover naturale, ossia le persone che vanno di scienza in pensione, oppure non rinnovare un contratto a tempo determinato, in cui non devi tecnicamente licenziare perché il contratto è scaduto e quindi il lavoratore non ha più un rapporto di lavoro. Però sono quasi tutti giovani, perché il nostro mercato del lavoro è fatto così, che si entra con un lavoro a tempo determinato, spesso non si riesce poi a passare a quello a tempo indeterminato. E ahimè è stata una scelta politica con delle conseguenze che stanno pagando i giovani. Senta, due domande ancora, professor Garibaldi. La prima, però lei cosa si attende quando dovrà verrà meno il blocco dei licenziamenti? Perché se seguo il suo ragionamento io dovrei dire va bene, allora avremo un aumento dei licenziamenti nella parte, diciamo, a tempo indeterminato, però magari torneranno a essere assunti i giovani. C'è però chi teme che arrivi solo un aumento dei disoccupati senza nessun beneficio per i giovani. Dei licenziamenti. Se noi guardiamo i numeri, sembra quasi un miracolo, perché abbiamo il PIL che fa meno 12 e l'occupazione a livello aggregato che fa meno 2. Capisce che c'è qualcosa di clamoroso. E cos'è più clamoroso? Il fatto che ci sono vieti di licenziamento. Il PIL meno 12 non è mai successo dal dopoguerra. Ovviamente ci sarà un po' di rimbalzo nel terzo e nel quarto trimestre, come dice il ministro, ma l'occupazione, sempre durante la recessione, prima cala il PIL, dopo un po' cala l'occupazione. Ma non è che se il PIL cala di 12 l'occupazione cala di 2, l'occupazione deve purtroppo calare un pochino di più, perché sono le leggi dell'economia che ahimè... No, ma la cinghia di trasmissione, lo ricordavamo anche qualche giorno fa, è sempre stata così, cioè a fronte di un crollo del PIL non hai subito un crollo degli occupati, è un po' più lenta la cinghia di trasmissione, ma è anche più inerziale, cioè poi te li becchi. E su questo però le volevo chiedere, ma secondo lei non potrebbe avere spinto il governo a fare questa mossa la riflessione che magari se nel terzo trimestre le imprese migliorano i fatturati pur stando sotto al livello del 2019, ma sicuramente meglio del primo semestre del 2020, magari l'ondata di licenziamenti risulterà più bassa, cioè si attenua? Certo, all'inizio, nei mesi del lockdown, probabilmente in quei due mesi, io penso che fosse ragionevole quello che hanno fatto. Poi decidere di estendere così tanto hanno un pochino esagerato. Siamo gli unici in Europa ad avere un blocco di licenziamenti così intenso. Io mi auguro che lo scenario sia quello che dice lei, che ci sia un rimbalzo importante del PIL, delle imprese dicono questo eccesso di lavoro lo teniamo. Ovviamente le assunzioni non arriveranno, perché prima cosa che fai cerchi di riutilizzare e di riassorbire la cassa integrazione, per le assunzioni probabilmente il prossimo anno. È ovvio che comunque sia in queste scelte, che è bello tutelare i posti a tempo indeterminati, ma c'è sempre qualcuno che soffre in economia, che sono quelli che sono fuori, perché ovviamente le assunzioni le tardiamo ancora e sono sempre i giovani. Quello a cui l'Europa ci chiede di pensare con il Next Generation EU. Allora, ultima domanda a proposito di Next Generation. Oggi il rapporto Union Camere stima in 1.800.000 la richiesta tra laureati 900.000 e diplomati e 688.000 persone con qualifica professionale che troveranno lavoro da qui al 2024. Però fa anche notare che nel 40% dei casi, cioè che la domanda... che l'offerta riuscirà a rispondere solo al 60% della domanda, cioè in 4 casi su 10 le imprese non troveranno lavoro nelle professionalità chieste. I laureati rappresentano il 34% della domanda, con soprattutto l'indirizzo medico paramedico 173.000, l'indirizzo economico 120.000, ingegneria 117.000, insegnamento e formazione 104.000, area giuridica 88.000. E poi e lì stimano appunto un 40% di offerta in meno, mentre vi è un eccesso di offerta negli ambiti politico, sociale o linguistico, io aggiungo io anche nella scienza della comunicazione. Neodiplomati, si osservano situazioni di eccesso di offerta per licei e per l'indirizzo tecnico del turismo, la gastronomia e ospitalità, e poi è eclatante il mancato incontro tra domanda e offerta per l'istruzione e formazione professionale, cioè praticamente neanche il 60% di quello che viene richiesto. Ora le chiedo, e situazioni ancora più critiche per la meccanica, per il legno arredo, per la logistica o l'edilizia. Allora, alla luce di questo tsunami che ci sta arrivando sull'occupazione, com'è possibile ancora avere, secondo la stima di Unioncamere, un mismatching tale per cui nelle figure che ho richiesto si arriva a trovarne 6 sulle 10 necessarie? Ed è perché è uno dei paradossi del nostro mercato del lavoro, in cui oltre a Unioncamere, che ovviamente ha la sua autorevolezza, ma l'Ocse, che lo fa in maniera sistematica per tutti i paesi, mette l'Italia come indice di mismatch, ossia la distanza tra i tipi di lavoro cui le imprese hanno bisogno e i tipi di skills disponibili dai lavoratori, siamo i peggiori d'Europa, quindi siamo i peggiori nel mismatch, e l'Unioncamere in questo studio ce lo conferma. Quindi i problemi non si risolvono in quel tempo, vi è ovviamente una grossa responsabilità delle università, che in qualche modo non riescono, mi faccio parte, insomma, essendo professore, a formare e dare gli indirizzi necessari alle imprese. È una responsabilità dei singoli studenti che scelgono corsi e anche di famiglie. E anche le famiglie che li mandano ovviamente in corsi di laurea in cui la transizione, ci sono informazioni per sapere qual è posti, quali tipi di laurea o in particolare di scuole superiori tendono a Abbiamo fatto interi viaggi sugli ITS e con tassi di occupazione pazzeschi a pochi mesi o anni dalla... E poi c'è però un problema del governo, anche dello Stato, perché comunque noi siamo molto indietro sia sulle scuole professionalizzanti, che non abbiamo mai in qualche modo legiferate bene come in Germania, e siamo molto indietro sulle politiche attive del lavoro, sui centri dell'impiego, perché paesi come la Germania e il Giappone, che hanno una struttura industriale non così diversa dalla nostra come importanza, non hanno un problema di disoccupazione giovanile. Quindi se questi centri dell'impiego, che sono un ente statale, funzionassero, aiuterebbero al Ma lì siamo scomparsi, non ci si è più saputo niente. La colpa di tutti però è un disastro, perché questi numeri fanno arrabbiare. Sì, io aggiungerei anche se si venisse ripristinata l'alternanza scuola-lavoro non sarebbe male, perché anche in quel caso c'era comunque un tentativo, piccola cosa per carità, di legare il mondo delle professioni con il mondo della formazione. Dopodiché adesso ho tanti di quei problemi che poi, ma prima o poi torneremo anche a parlare della parte, diciamo, navigator e non del welfare come reddito di cittadinanza per chi tanto ormai era in condizioni, diciamo, di povertà cronicizzata, ma come cosa è cambiato, li hanno informatizzati, li hanno collegati, sono rimasti navigator così a navigare, galleggiare più che navigare, questo vorremmo capire. Qualcuno mi sta scrivendo, guardi che però l'idea di bloccare i licenziamenti perché è più difficile per chi ha più di 50 anni ricollocarsi, reinventarsi rispetto a un giovane, sì. È vero, attenzione che però poi anche il blocco dei licenziamenti prima o poi verrà meno. Comunque, grazie anche al professor Pietro Garibaldi. Adesso andiamo sul GR24, poi iniziamo una lunga pagina sulla riapertura delle scuole, di quasi tutte, ripeto, molte nelle regioni in cui si vota, cioè in alcuni casi c'è stato uno slittamento. Cercando di essere più obiettivi possibile per quello che riguarda la difficoltà anche degli altri paesi, magari daremo anche un aggiornamento. Non ho visto agenzie dalla Francia da parte dell'atteso discorso del Premier Castex, che doveva introdurre misure dolorose. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Focus Economia. Minuti. Allora, meno 3 la ripartenza della scuola dopo 6 mesi di chiusura per 8 milioni di studenti italiani, vi sarà il rientro in classe. Chiaramente varia da regione a regione l'inizio, nello specifico le regioni che riapriranno le scuole il 24 settembre sono Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Calabria. Il 22 invece riaprirà la Sardegna, il 16 il Friuli Venezia Giulia, l'Alto Adige ha già aperto, le restanti riapriranno lunedì, che è un po' la data simbolica, pur appunto con tutte le eccezioni che ho appena elencato. Guarderemo anche quello che hanno fatto, anzi lo dico subito, quello che hanno fatto gli altri paesi, perché ripeto, la riapertura delle scuole è complicatissima in tutti i paesi e, come ha detto appunto il presidente del comitato tecnico scientifico Miozzo, non c'è un paese che faccia quello che fa il paese limitrofo. In Francia, dove poco fa il premier Jean Castex ha annunciato che la quarantena scende a 7 giorni per chi è venuto in contatto con un positivo al Covid, tutti gli adulti che saranno presenti nelle scuole dovranno indossare la mascherina sanitaria e anche i bambini a partire dalla sesta, cioè dalla prima media. I dispositivi di protezione, c'è stata una lunga polemica, cioè le mascherine non saranno messe a disposizione gratis per tutti gli studenti alla riapertura delle scuole. In Spagna gli alunni a partire dai 6 anni dovranno indossare la mascherina in classe anche se fanno parte della cosiddetta bolla, cioè il gruppo di convivenza stabile. Non potranno interagire con membri di altre classi. In Gran Bretagna c'è stato un ennesimo dietrofront di Boris Johnson, che ha cambiato idea, ormai ho perso il conto. Sì, le mascherine non solo in Scozia ma anche nel resto del Regno Unito. Con la mascherina si va a scuola anche se non in classe. La Germania, sulla scia di una grandissima organizzazione federale che ha lasciato ampio margine ai Länder per decidere circa l'uso delle mascherine, e comunque applicherà nelle scuole le stesse misure anti-coronavirus che già vi sono nel territorio. Allora, noi dedicheremo come gruppo Sole 24 Ore domani, adesso lo faccio raccontare a Eugenio Bruno, un grande speciale del quotidiano, tutti in classe, tra parentesi, ma come, col punto di domanda, le nuove regole per far ripartire le scuole. Radio 24 domani avrà appunto il reportage, sarà dedicato alla riapertura delle scuole, ma il reportage dalle 8:15 domani su Radio 24, ma soprattutto vi sarà il Radio Day lunedì. Seguiremo lungo tutti i GR della giornata, i GR soprattutto principali, con collegamenti appunto varie scuole, vari plessi scolastici, come sta andando questa riapertura. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato Eugenio Bruno del Sole 24 Ore. Buonasera Eugenio. Buonasera. Dall'altro grazie anche alla segretaria del CISL Scuola, Maddalena Gissi. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. La CISL oggi ha lanciato un allarme, una scuola su quattro non riaprirà normalmente. Adesso vi arriviamo, poi abbiamo un ospite un po' particolare, ma lo presento fra qualche minuto. Eugenio Bruno, allora, che cosa sarà contenuto, ma soprattutto i dubbi, visto che c'è un bel punto di domanda, ma come, quali sono ancora? Devo solo dare un aggiornamento nello scontro tra il governatore Cirio e il ministro Azzolina. Cirio ha detto, sapete che Cirio ha chiesto vi sia l'obbligo di misurare la febbre quando si arriva a scuola. L'Azzolina ha detto che è pronta a impugnare il provvedimento perché il governo ha deciso invece che sarà compito dei genitori misurare la febbre in casa, e il motivo è perché si vuole evitare che un ragazzo, diciamo, con la febbre alta prenda i mezzi e quindi arrivi a scuola tra virgolette avendo già contagiato, rischiando di contagiare altre persone. Cirio ha detto allo Stato che deve toccava allo Stato l'obbligo di misurazione della febbre. Comunque, Eugenio, i temi e i dubbi che saranno anche parte appunto dello speciale del Sole 24 Ore, tutti in classe. Allora, lo speciale che esce in edicola domani prova a fare il punto su questi 6 mesi lunghissimi dove le scuole sono rimaste chiuse, le lezioni si sono trasferite online e quindi nel frattempo si è deciso come bisognava riaprire a settembre. Settembre è arrivato, l'appuntamento clou è il 14. Ricordiamo un po' tutto, ecco, hai citato i termoscanner e la temperatura, ricordiamo che tocca ai genitori misurarla, raccontiamo che sta succedendo sulle mascherine, che sono obbligatorie le chirurgiche, però visto che tutte le scuole non le hanno ancora ricevute, nel frattempo è meglio presentarsi in classe comunque con la mascherina, diciamo, propria, anzi con due mascherine. Che è obbligatoria negli spostamenti, non quando sei seduto, a meno che non sia mantenuta la distanza dei banchi, giusto? Assolutamente sì, mascherina all'ingresso, all'uscita, e se ti sposti al banco la puoi abbassare, ma se c'è un metro, e quindi tendenzialmente se c'è il nuovo banco o hai un'aula grande, altrimenti va tenuta anche al banco. Dai 6 anni in su, questa è un'altra indicazione importante. I temi sono anche altri, sono i banchi, ne servono 2.400.000 che arrivano entro ottobre, ne dovrebbero arrivare al lunedì circa 200.000 come primo step. Quindi c'è il nodo dei trasporti, tutti i temi che tu in trasmissione hai raccontato, che abbiamo approfondito insieme in questi mesi, ma diciamo il momento delle chiacchiere è finito, oppure dovrebbe essere finito. Sì, non delle polemiche, visto lo scontro tra Azzolina e Cirio. Maddalena Gissi, voi avete oggi come CISL stimato in una scuola su quattro che non riaprirà regolarmente, ma regolarmente vuol dire che ci potranno essere dei problemi o che non riaprirà? Ci potranno essere dei problemi, in alcuni casi addirittura non riapriranno. Le notizie che ci sono pervenute dai territori e anche abbiamo letto online, ci sono i comuni, i sindaci che stanno rinviando l'apertura dal 14 al 24, Viterbo, Rieti, per parlare del Lazio, molte e anche molti piccoli comuni, molte realtà sono in grande difficoltà, i dirigenti si stanno attrezzando, anzi lo hanno fatto per tutto questo periodo insieme anche a tanto altro personale. Il problema è: apriamo i battenti in che modo? Con tanta buona volontà, questo glielo abbiamo chiesto, anche noi lo abbiamo sostenuto, ma probabilmente non è possibile organizzare un tempo scuola se manca il personale. E di personale che manca, vista la quantità di supplenti che quest'anno avremo, si aggira intorno a oltre le 200.000 unità, probabilmente i primissimi 20 giorni, 30 giorni sarà difficile avere personale in cattedra. Di questi 200.000, 100.000 sono per gli insegnanti di sostegno, quindi la fragilità dei disabili rischia veramente di essere ancora più incrementata. E poi ci sono le questioni strutturali, le aule che non sono state terminate perché i finanziamenti e i bandi agli enti locali sono arrivati solo nel mese di agosto, i banchi, non mi soffermo sui banchi perché è stato oggetto anche di uno scontro diretto col commissario Arcuri, perché ha avuto l'ardire di definire i dirigenti scolastici come coloro che avevano fatto richieste per il restyling e degli arredi, mentre noi sappiamo benissimo che gli arredi scolastici in alcuni casi sono borbonici. Senta, io le volevo chiedere una cosa però e poi passare all'ospite, tra virgolette, a sorpresa. Nei mesi di giugno e luglio io stesso avevo fatto decine di puntate chiedendo al governo di avere maggiori indicazioni, di non prendersi tardi. Allora, a noi è sembrato che per quello che riguarda il sindacato vi fosse più un'attenzione a tutelare gli operatori scolastici, cioè gli insegnanti e tutti quelli che ruotano attorno alla scuola, che non una richiesta di far ripartire la scuola, cioè, e di premere sul governo affinché arrivassero indicazioni più certe. Lei se la sente di riconoscere che forse il sindacato ha tutelato nei mesi in cui bisognava premere ancora di più, magari anche con manifestazioni di carattere sindacale, più la sicurezza di chi lavora che non l'esigenza di istruzione degli alunni? Le posso dire, non voglio smentirla perché apprezzo molto la serietà del suo lavoro. Abbiamo i documenti pubblicati. Il 18 di aprile abbiamo definito 10 punti per la ripartenza che nulla avevano a che fare con il personale, anzi. Noi abbiamo chiesto addirittura la complicità degli enti locali, abbiamo sollecitato noi le nostre confederazioni che a loro volta hanno pubblicato insieme a noi ulteriori documenti proprio perché le misure di sicurezza, cioè le misure anticontagio, dovevano entrare in norme che predisposte per tempo potevano essere immediatamente applicabili anche a fine maggio. Tenga conto che a giugno, quando Conte ha ricevuto le confederazioni, il grido d'allarme non è stato, oltre che del sindacato che lo aveva urlato ampiamente, tanto che abbiamo tenuto Palazzo Chigi casualmente, Bonaccini e De Caro non hanno detto altro in quell'occasione. Siamo in ritardo, non ci avete dato ancora gli strumenti per le aule, per avere le garanzie, quindi per i trasporti non ne parliamo. Quindi non me la sento di dire che c'è stato questo. Aggiungo anche questo: l'8 giugno, in una giornata di non attività didattica, quindi non abbiamo tolto nulla all'utenza, anche nemmeno quella a distanza, noi abbiamo proclamato uno sciopero per far aprire un focus sui problemi della scuola. Se non avessimo proclamato uno sciopero, è come se avessimo scioperato di domenica. Ecco, guardi, devolvendo l'importo della quota direttamente alla Protezione Civile, e le 5 organizzazioni hanno versato 50.000 euro alla Protezione Civile, ci serviva, abbiamo anche comprato le pagine dei giornali, ci serviva proprio alzare un riflettore. Questo riflettore però è rimasta una lampadina fino a quando poi sono scoppiati i problemi. Ero stato facile profeta e spero che non avvenga la stessa cosa per il recovery plan. Allora, poco fa una notizia che alla Spezia, perché gli abitanti della Spezia, slitta la riapertura per Covid alla luce dell'andamento dei contagi al 24 di settembre. Pensa un po' ai genitori dei ragazzi, dei spezzini, che devono andare a scuola lunedì. Allora, a occuparsi del tema, oltre che solo le 24 ore domani con tutti in classe, il nostro reportage, il Radio Day di Radio 24 lunedì, sarà anche domani Mirta Merlino dalle 20:30 con uno speciale sulla 7, in cui vi saranno collegamenti con studenti e anche, se ho ben capito, il ministro Azzolina. Buonasera Mirta, innanzitutto. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti voi. È domenica sera lo speciale, alle 20:30 domenica sera, perché l'idea è proprio questa, cioè la vigilia da passare insieme. Cioè abbiamo, noi sappiamo, che perché io su tutte le mattine che lo racconto in onda, sappiamo che ci sta un'attesa pazzesca da parte di professori, di genitori, di ragazzi del paese, e quindi vogliamo raccontare questa vigilia, notte prima degli esami l'abbiamo chiamata, assieme agli italiani, perché avremo collegamenti, come tu hai detto, aperti con licei da Napoli, Roma e Milano. Quindi proprio l'idea è far entrare tutte le voci. Tra l'altro, scusami, mi aggancio a una frase che tu hai detto: pensa ai genitori, hai detto, sulla Spezia. Sì. Ecco, io sto ricevendo una quantità di mail, segnalazioni, telefoni sui social, i genitori che dicono: ma è la mamma dei tre figli che ci ha scritto 5 minuti fa dicendo: io ho 3 bambini che devono andare a scuola lunedì mattina, la scuola ha scritto adesso, venerdì pomeriggio, che loro non sono in grado di riaprire perché non ci sono i banchi nuovi, non sono riusciti a sanificare. Ma io cosa faccio lunedì mattina con le mie 3 bambine che devo portare a scuola? Allora, qui c'è un tema delicatissimo, perché la prima vittima, dunque la notte prima degli esami, mi piace molto, anche perché è un format che noi usiamo però per la maturità da tanti anni a Radio 24. Però qui c'è un tema: le prime vittime sono state gli studenti di quello che è successo negli ultimi 6 mesi. Ci mancherebbe. È importantissima la sicurezza del personale scolastico, cioè docente e non docente. Però poi ogni tanto qualcuno potrebbe anche ricordarsi dei genitori, lo dico a te Mirta che hai 3 figli, quindi sì, capisci cosa voglio dire. Perché, parla, sì. Perché qui io sento dire, vabbè, io ho visto l'orario per esempio della scuola di mio figlio, una settimana entra alle 7:30, una settimana entra a mezzogiorno, e una settimana esce a mezzogiorno meno un quarto, la settimana dopo esce alle 4. Ma per carità, qualcuno mi dice, beh, ma anche ai tempi nostri, io sono del 68, certo, baby boomers, ricordo anch'io elementari, una settimana la mattina, una settimana il pomeriggio, era un altro mondo anche sull'occupazione femminile. Però diciamo, quello che Mirta possiamo dire è che una volta, se c'era una certezza in una famiglia, era l'orario scolastico. Poi magari potevano, gli problemi della ripartenza ci sono sempre stati, per carità, cattedre vacanti, insegnanti di sostegno e quant'altro, però almeno sapevi che se l'orario era 8:05 finiva alle 15, oppure 8:15 e finiva alle 14, quello era. Temo che creerà dei problemi enormi nella gestione quotidiana delle piccole cose, non solo, capito, del termoscanner, ma anche della gestione quotidiana di famiglia. A maggior ragione se li hai piccoli e sono 2 o 3 figli e lavorano, si spera, tutti e 2 genitori. Infatti devo dirti che per me notte prima degli esami, per domenica sera, è esattamente questo, cioè è perché è un esame per tutti, è per il paese, non è che c'è la scuola da una parte, i professori dall'altra, gli studenti. Ogni famiglia italiana ha un figlio, un nipote, c'è un pezzo di vita che si muove attraverso la scuola. E per le donne, già durante il lockdown, io ho raccontato tutti quei mesi, è stato un calvario per le donne ritrovarsi all'improvviso ai figli in casa e avere la impossibilità di continuare con il loro lavoro. E dall'altra parte, adesso, le stiamo chiedendo i salti mortali, perché anche, per esempio, queste entrate scaglionate. Se tu, l'altro giorno, è venuta in trasmissione a una signora con 4 bambini, lei mi dice: io ormai mi sveglio la mattina e ho un giro di consegne, mi sveglierò la mattina, perché uno entro in 4 ore differenti e escono in 4 ore differenti. Ma io come ci vado a lavorare se non ho più una tabella di marcia, un'agenda? E questo, come ben sappiamo, sono contenta che tu abbia posto di nuovo il problema. Non è un problema di noi donne, è un problema del paese, perché avere meno donne al lavoro è un dramma per il nostro paese, per il nostro PIL. Quindi noi contemporaneamente quest'inverno già abbiamo tolto 6 mesi di vita a una generazione e abbiamo ricacciato le donne in casa. Cosa sì, perché poi tutto si è scaricato sulle donne lavoratrici, diciamo. Tutto, certo, ma insomma nel 95% sì, dei casi. Tutto, e dall'altra parte, sinceramente, voglio tornare un attimo alle cose dette da Eugenio e dalla sindacalista della CISL. Ragazzi, la scuola è chiusa i primi di marzo, cioè io mi aspettavo che da quel momento in poi si cominciasse a ragionare, prevedere. Cioè, adesso facciamo tutto il tifo, io per lunedì mattina tengo le dita incrociate e faccio il tifo per il paese, spero che tutto vada bene, me lo auguro con tutto il cuore, però non posso non notare che, insomma, arrivare con i problemi dell'ultimo momento, con i banchi che non arrivano all'ultimo momento, con i termoscanner che non si capisce, cioè sinceramente il tempo l'abbiamo sì, quella dei banchi lo devo dire perché mi ha mandato in bestia quando chiese le dimissioni del ministro, perché tu non puoi, dopo aver ragionato di Plexiglas e quant'altro, arrivare con il bando. Facemmo le ultime puntate con i produttori di banchi che ci dissero: ma guardate, adesso vado a riprendere, ci raccontò quanti decine di camion servivano a lui solo per produrre 200.000 banchi, e si capiva già che era impossibile questa cosa dei banchi, era meglio provare in altro modo. Comunque, Eugenio Bruno e rapidamente anche Maddalena Gissi. Eugenio, il tema dei genitori e delle famiglie si interseca chiaramente con il tema del mercato del lavoro, perché poi non giriamoci attorno. Sì, si interseca anche doppiamente, perché adesso stiamo parlando di una riapertura scaglionata, rinviata, complicata. Poi c'è tutto il tema di che cosa succede in caso di contagio accertato nella scuola, quarantena per l'intera classe, il genitore con il figlio in quarantena, se è fortunato può fare lo smart working, se è semi fortunato può avere il congedo retribuito al 50%, ma se invece è una partita IVA e non ha altre forme di tutela, è chiaro che si trova in grosse difficoltà. Maddalena Gissi, da questo punto di vista, la vostra posizione nel futuro, me lo dica in estrema sintesi, quale sarà? Cioè, sarà al primo caso blocchiamo tutto e andiamo con, qua mi passi il termine, quasi con un eccesso di cautela, o cerchiamo di salvare, cioè di mantenere il più possibile la scuola in presenza, chiaramente isolando i casi? Cioè, quale sarà l'atteggiamento perlomeno della CISL? Salviamo il paese, condivido quello che diceva Mirta. Salviamo il paese perché il paese ha bisogno di una scuola che tra mille difficoltà dia al paese sicurezza, però dobbiamo salvarlo mettendoci tanta buona volontà un po' tutti, quindi c'è una scelta che il governo deve fare, probabilmente devono farlo anche tutti quei soggetti forti della finanza, del mondo industriale, dove devono farsi un po' da parte tante altre lobby che spingono per nuovi finanziamenti. Dobbiamo guardare alla scuola, perché la scuola garantirà. Sì, ma io volevo sapere, ma l'atteggiamento sindacale per quello che riguarda la CISL sarà di cercare appunto di contenere il più possibile le chiusure, o andremo verso basta, adesso si sciopera? No. Faremo una manifestazione accompagnando i genitori il 26 di sabato, 26 pomeriggio, perché ce l'hanno chiesto i genitori il 26 settembre. No, non chiederemo con gli scioperi e le manifestazioni, e poi noi siamo organizzazioni confederali, la CISL ha un altro profilo, però le posso dire, siamo in grande difficoltà, perché quando mettiamo in discussione la sicurezza, non è la sicurezza solo del personale, è la sicurezza di quei milioni di alunni, di quelle milioni di famiglie. E io le posso dire, noi la sera del 13 inviteremo, e anche il 14 sì, io lo farò pubblicamente, a festeggiare, perché è il primo giorno per noi. Vabbè, guardate, rinascita. Secondo me gli unici contenti, lo dico senza battute, in questo momento sono i ragazzi, e li capisco anche, che dopo 6 mesi così, almeno 4 ore di scuola. Poi sui genitori ho qualche dubbio, e sugli insegnanti pure. In bocca al lupo a Mirta Merlino, domenica alle 20:30 lo speciale di La 7, ma mi interessava la tua testimonianza, chiaramente, come anche come mamma e come quello che raccogli tutti i giorni nel programma. Grazie anche a Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, grazie a Maddalena Gissi, segretaria della CISL Scuola. Un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e in regia anche questa settimana. Incrociamo le dita, lunedì torneremo a parlarne a partire dalle 7 di mattina con il primo Radio Day. Intanto, da Sebastiano Barisoli, l'augurio di un buon fine settimana. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.